Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Riesco a fatica, tra il fango e la neve, a raggiungere il magazzino in mezzo alla campagna. Scarico quel centinaio di scatole che aspettavano col rappresentante e riparto. O almeno ci provo. Ciao, sono Marco Avolio, faccio l'autista, vivo a Novi Ligure, sono sposato con Vanessa, ho due bambine, Angela e Leana. Cioè, lo sappiamo perché li abbiamo incontrati, perché è un dato statistico e perché li conosciamo, molti di loro li conosciamo. C'è un gruppo di persone all'ascolto in questo momento che sta viaggiando, sapete che la radio è ascoltata molto molto in automobile, ma c'è di questa parte di persone che sta viaggiando una parte che non sta ascoltando dall'automobile, ma da un furgone oppure da un camion. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è Voi Siete Qui e oggi raccontiamo la storia di una di queste persone, di un autista, l'avete sentito che si presentava, la storia di Marco. Marco qualche tempo fa, qualche anno fa direi, un po' di anni fa, rimane in panne con il suo furgone o con il suo camion. Ora, già rimanere in panne con un'automobile, con un motorino, con una motocicletta è già una rottura incredibile. Io voglio non voglio immaginarmi che cosa sia rimanere in panne con un mezzo di trasporto, più un'auto articolato, ad esempio, con un bilico, con che so cos'è, per non chiedetemi perché so cos'è un bilico. Il bilico è un camion con il trasporto lungo. Cioè, con un unico trasporto lungo. Con l'auto articolato è quello con due, il bilico è quello con unico lungo. 800240024. Se siete su un camion, se siete su un furgone, se siete su un bilico o su un'auto articolato, che forse sono la stessa cosa, forse no, e se non state guidando, ovviamente, 800240024. I camionisti, gli autisti all'ascolto, che ci raccontino che cosa è stata la volta in cui sono rimasti in panne con il loro mezzo con 18 ruote e 4 motori da 7000 cavalli. Ho esagerato, però ci siamo capiti. 800240024. A tutti questi, tra l'altro, se vi capita di passare lunedì prossimo da Corso Venezia, me lo immagino proprio un bilico in Corso Venezia, noi siamo al Pirelli Flagship Store di Corso Venezia numero 1 in diretta a raccontare, in quel caso, storie di calcio e non storie di panne di auto o di auto articolati. Però siamo lì gratuitamente, facciamo la nostra puntata, si può venire a vedere, si sta nel posto, è molto bello e si chiacchiera un po' tutti insieme lunedì alle 16 in diretta da là, dalla Pirelli, dallo store Pirelli di Corso Venezia. Invece oggi ascoltatevi la storia di Marco e soprattutto se siete dei trasportatori. 800240024. Era credo l'inverno del 1998. A quel tempo il mio lavoro consisteva nel fare una serie di consegne di prodotti cosmetici e accessori presso i rappresentanti, che poi si occupavano della distribuzione nei negozi. Era un lavoro particolarmente pesante, perché c'era da caricarsi a mano un migliaio di scatoloni e sempre a mano scaricarli in giro per l'Italia, nei vari magazzini, nel più breve tempo possibile, 100 di qua, 150 di là. Quella notte pioveva e faceva particolarmente freddo. Nei giorni precedenti c'era stata una bella nevicata. Con il mio camion ero arrivato dalle parti di Cesena, un paesello chiamato Mercato Saraceno. Il magazzino da raggiungere era su un'altura in mezzo alla campagna. Riesco a fatica, tra il fango e la neve, a raggiungere il magazzino. Scarico quel centinaio di scatole che aspettavano al rappresentante e riparto, o almeno ci provo. La stradina da cui dovevo uscire era in salita, sterrata e ancora innevata, e tra l'altro pioveva. Ovviamente il camion inizia a slittare e non sale. Provo, riprovo, ma niente da fare. Concentro il peso della merce sull'asse motrice, metto dei cespugli sotto le ruote, ma è tutto inutile. Disperato. Mi rassegno, intanto si erano fatta circa le 2:30 del mattino. Infreddolito, bagnato fino alle ossa e sfinito, mi sdraio sui sedili e cerco di dormire. Ero arrivato a caricare questa roba in questo posto in mezzo alla campagna, che era passata mezzanotte, quindi non potevo nemmeno contattare qualcuno, ero in un posto particolarmente isolato, era il 98, i telefonini erano appena usciti, diciamo, cioè erano in pochi ad avercelo. Verso le 5 del mattino a fatica mi rialzo, decido di incamminarmi sperando di trovare qualcuno che possa aiutarmi ad uscire da lì. Dopo circa mezz'ora arrivo ad una casa, più che altro una fattoria. Ancora bagnato, sempre più infreddolito, busso alla porta. Mi apre una signora di mezza età, la tipica donna di campagna d'altri tempi. Non faccio in tempo a spiegarle niente, che lei mi porta in casa mi fa sedere vicino al fuoco. Poi con calma mi chiede cosa mi è successo e mi mette tra le mani una enorme tazza di latte caldo, dicendo: questo è latte vero, non quella roba che vendono al supermercato. Insieme al latte mi dà anche un quarto di pagnotta. Inizio a bere e mi sento rinascere. Nello stesso tempo ho rivissuto i momenti in cui da piccolo andavo da mio zio Pietro, che aveva ancora le mucche, a prendere il latte appena munto, tutte le sere, all'imbrunire, fischiettando, così che mi sentissero arrivare da lontano. Le racconto dell'accaduto, le chiedo se mi possono aiutare. Lei mi risponde: sei fortunato, ragazzo. Stamattina mio marito è ancora a letto perché ha un po' di febbre. Se no, di solito a quest'ora è già chissà dove col trattore e gli animali. Mi sento un po' in colpa, le dico, ma il marito si alza e mi dice: nessun problema, andiamo su col trattore e vediamo cosa si può fare. Così mette in moto e raggiungiamo il mezzo. Intanto mi raccontava delle sue cose, come se mi conoscesse. Poi, grazie ad una grossa catena e al suo trattore, riusciamo a trainare fino alla strada il mio mezzo. Mi raccontava, mi diceva che niente, la sua vita è la campagna, lui aveva questa fattoria con gli animali, ha sempre vissuto lì nel suo piccolo mondo di cui era pienamente soddisfatto. Io lo ringrazio un'infinità di volte chiedendogli quanto gli devo per il disturbo, ma lui quasi si offende e sorridendo mi saluta. Sono passati tanti anni, ma non ho mai dimenticato questi due signori che senza esitare mi hanno accolto, rifocillato e aiutato in ogni modo. Mi sono sempre promesso di tornare là per portare loro un pensiero, ma la vita mi ha portato lontano da quelle zone. Non so i loro nomi, non so se esistano ancora, ma i loro volti, i loro gesti, il calore che mi hanno dato, li porto sempre con me. Nell'estate della maturità, insieme a Christian, un mio amico, avevo organizzato uno spettacolo in una casa di riposo a una trentina di chilometri da casa. Facevamo Il sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare, una commedia piena di innamorati che passano il tempo a bisticciare e a fare la pace, insomma, il testo ideale per un gruppo di ultraottantenni. Il giorno dello spettacolo, le infermiere avevano organizzato una cena per tutti quanti. Se la mia percezione di quel posto fino a quel momento era stata idilliaca, durante la cena le cose un po' cambiano. Il silenzio è interrotto solo dal rumore dei piatti. C'è gente che mangia a fatica. L'odore che c'è nelle mense e le finestre che sono tutte chiuse, anche se è luglio e il sole è caldo. Ci defiliamo il più rapidamente possibile e andiamo da Christian a vederci un film. Ci vediamo Freaks, il film degli anni 30, uno dei film più maledetti e discussi della storia del cinema. È un film, se non lo conoscete, interpretato da veri fenomeni da baraccone, che parla della loro vendetta contro una donna bellissima, ma colpevole di aver sedotto un nano per denaro. Alla fine del film, Christian non ha più voglia di riaccompagnarmi a casa e mi presta la sua macchina. È molto tardi, c'è silenzio sulla strada che è deserta e buia e mi risalgono i rumori della cena nella casa di riposo, le smorfie, le bocche sdentate, le mani nodose, e si confondono con l'immagine di quel film, i nani siamesi, i testa spillo, il bruco umano, il mezzo ragazzo e per ultima la più spaventosa, la bellissima Venere che a causa della sua avidità viene trasformata dai Freaks nella donna gallina. E proprio quando arrivo con la mente alla donna gallina, la macchina rallenta e poi si ferma. Mi guardo indietro distinto, come se avessi un freak nascosto nel bagagliaio pronto a vendicarsi. Sono in una strada in mezzo a un bosco e non posso fare altro che stare là, ad aspettare. Provo ad addormentarmi, ma torna di nuovo a trovarmi con l'insieme grottesco e spaventoso, ancora più amplificato dal sonno. Solo molto dopo, sento avvicinarsi una macchina. Arriva veloce e si ferma solo dopo che mi ha superato. Scendono un paio di ragazzi, un po' più grandi di me. Si tirano degli schiaffoni e urlano, insomma sono belli carichi. Spiego che devo tornare a casa ma la macchina è ferma. Uno di loro dice di essere un meccanico. Non ci credo ovviamente, ma non glielo posso dire. Oh, apri il cofano, mi urla uno, poi parla con l'altro che riparte sgommando. Dopo 5 minuti tornano con una cassetta degli attrezzi, due panini e due birrette per noi. Io prendo il panino e lascio la birretta, mi vergogno un po', ma se sono astemio non ci posso fare niente. ci raggiungono altre due macchine piene di loro amici, tutti con la bottiglia di birra in mano. La mia panna diventa praticamente il passatempo del loro sabato sera. Mentre finisco il panino, uno degli ultimi arrivati mi mette in mano la sua bottiglia e si infila in macchina. Vorrei dirgli di scendere, ma mi trattengo. Lui si tira dietro la porta e accende la macchina come se niente fosse. Dopo aver fatto due sgommate per festeggiare, mi fa vedere in basso a destra, di fianco alla chiave, la leva dell'aria che è tirata. Christian mi aveva detto di abbassarla dopo la partenza, ma io me ne ero dimenticato e la macchina si era ingolfata. Dovevo solo aspettare che si raffreddasse. I ragazzi mi prendono in giro, io vorrei offrirgli una birra, ma da una stemmia non vogliono niente. Quando è quasi l'alba, mi salutano come un vecchio amico e mi sgommano davanti strombazzando coi clacson. Non ho mai saputo i loro nomi, non li ho mai più visti. Quei ragazzi pieni di birra e di voglia di far casino, mai. In una notte spaventosa con la macchina in panne, non mi poteva capitare di meglio che passare una serata con loro. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. La foto è doppia quella che ci ha mandato Marco oggi sul nostro sito radio24.it, la nostra pagina. C'è lui in un bel primo piano con gli occhi verdi e un sorriso appena accennato a sinistra, e a destra il suo camion, un Iveco bianco che non so cos'è, se è un auto articolato o un camion, ma va bene così. Pronto Marco? Buongiorno Matteo. Come stai? Benissimo, grazie. Sei sul tuo camion? Sono sul mio camion, sul mio Iveco. Che camion è il tuo? È un auto articolato? Come si definisce? All'epoca era una motrice, infatti quella foto lì è una foto che risale all'epoca ed era un Eurocargo. Adesso invece guido uno Stralis, un auto articolato. Quindi scusami, aspetta, l'auto articolato è quello con due vagoni. Ha una snodatura, aiutami, che gli permette di fare manovre particolari, sganciare. Quanto è lungo? Quanto è lungo? Sui 17 metri. Ok, quanti chilometri fai all'anno, Marco? Prima un po' di più, adesso ci limitiamo a 100.000. Ok, 100.000 all'anno, lavorando 5-6 giorni a settimana, quanti? Sì, 5 e mezzo. Sì. E gli orari come sono, Marco? Gli orari sono quasi il doppio di un comune operaio, poco da fare. Nel senso che parti a che ora? La legge si parte la mattina presto. Generalmente il mio lavoro mi permette di tornare a casa quasi tutte le sere, ogni tanto una notte fuori ci può stare. E si parte la mattina verso le 5 e mezza, si torna a casa la sera verso le 7, le 8 se va bene. Ma puoi dormirci sul tuo camion? Anzi due cuccette. Cioè a castello? Sì, esatto. E ogni quanto ci dormi? Ecco, appunto, adesso che si lavora un pochettino di meno, quelle 3-4 volte al mese, ecco. Ah, ok. Quindi, adesso te lo dice uno che non è mai salito su un camion, quindi perdonami. Fa un po' campeggio quando dormi fuori o è solo una rottura di palle? Dipende dallo spirito con cui la prendi. Esatto, il tuo lavoro è un po'... Cioè, se lo fai con passione, perché devi farlo con passione, se no questo lavoro non puoi farlo. Amarlo. Allora vedi da questo punto di vista. Infatti non so se vi è capitato di vedere magari accampati negli autogrill, soprattutto autisti, camionisti del paese dell'est, che si mettono lì e quasi sembra che banchettino mangiando. Ecco, diciamo che cercano di rendere positivo, un po' più piacevole, certo. Un momento che in realtà poi allegrissimo non è, però lo si cerca di rendere più simpatico, più certo, ecco, più leggero, sopportabile. Senti, invece tu sei stato a Mercato Saraceno. Io tutte le volte che faccio quella strada lì mi immagino questo posto come una sorta di posto sospeso nel tempo, no? Perché c'è un mercato e soprattutto è Saraceno. Sì, come no, è dopo Cesena. Ma scusa, ma è sull'A45 Mercato Saraceno, giusto? Sì, ok, esatto, ok. Più o meno sulla parte terminale salendo. Sì, ricordo. Da sud. Sì, ma l'A45 è ancora ridotta così male, con buche dappertutto? Temo non sia cambiato tanto dall'ultima volta. Ok, dimmi di quei due signori. I due signori sono stati qualcosa, la genuinità e la semplicità. semplicità genuina che avevano, quel calore umano che mi hanno trasmesso, mi hanno fatto rinascere. Io per questo non posso dimenticarli, perché sono state due persone veramente squisite. Cioè, la signora una mattina presto, che stava facendo giorno, apre la porta, trova davanti uno che poteva sembrare un barbone in quel momento, bagnato, zuppo, infreddolito, ma lei ha capito subito che era una situazione. Mi ha preso per un braccio, mi ha portato vicino al focolare. È una sensazione che insieme a quella ciotola di latte non potrò mai dimenticare. Tra l'altro, e poi ti saluto Marco, che c'è un tuo collega al telefono che volevo sentire. È arrivato un messaggio di Stefano che dice: sono un agricoltore e ho capito la storia del racconto, mi sono commosso, noi siamo proprio così, viva la campagna. Questo è l'SMS. Marco, grazie ancora per la storia e vai piano, come dice mia mamma. Va benissimo. Ciao, grazie. Grazie del consiglio. Grazie a te. Ciao. Andiamo, visto che abbiamo un autotrasportatore. Francesco da Brescia. Pronto, Francesco? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Ciao, bene, bene. Te? Io sto benone. Dove sei? Dove ti trovi? Ma io mi trovo direzione... sto andando verso Galliate, che penso che tu conosca. Come no? Da dove? Da Torino o da Milano? Da Milano devo andare a Galliate, Novara. Ma sei sul mezzo in questo momento? Con Turgone, Iveco Daily. Mi dai una strombazzata di clacson, così sentiamo com'è? Sì, adesso sono in parte... Ah, ok, va bene così. Mi guardano male, no? Che cosa trasporti? Trasporto qualsiasi cosa, sto portando del materiale di plastica. Ok, ma Galliate dove, scusami? Gagliate è una ditta che vernicia la plastica. Ok. Però trasporti qualsiasi cosa? Qualsiasi cosa, quello che viene richiesto dai clienti. Ho un'attività insieme con mio fratello. Mio fratello, si chiama Speedline. Ok, mi racconti di quando sei rimasto in panne con il tuo furgone? Ma diciamo che non sono neanche sono proprio rimasto in panne. Io vendo la fobia delle api. Praticamente proseguivo sull'autostrada alla velocità di circa 120 all'ora. E di colpo mi è entrata un'ape. Io mi sono distratto molto per quest'ape qua, entrandomi nella maglietta ho guardato dove andava a finire, se era addirittura nelle parti basse. Sì. E quindi mi sono così distratto che dopo ho pensato che avrò toccato il volante con la gamba, alzando la gamba ho deviato la mia direzione verso un'uscita che non c'era, che c'era un fosso nell'autostrada dove ci sono i campi. Sì, e com'è andata a finire? Un livello di un metro e mi sono capottato. Tu ne sei uscito intero? Sono uscito miracolato, spostandomi il mignolo. E il carico? Praticamente. E il carico, portavo dei piumoni quel giorno lì, dei piumoni da lavare. È andata bene. Non è successo, diciamo, nulla. Si è demolito... si è schiacciato completamente il furgone, purtroppo. E poi ti devo salutare, Francesco, ti appunto st'ape o no? Com'è? Ti appunto l'ape oppure no? Chi lo sa, non lo so, so solo che adesso se mi entrano le api mi faccio pungere sicuramente. Va bene. Grazie mille Francesco, vai a Galliate, arriva sano. Ciao, grazie. Ciao. 349-238-6666. Prima di chiudere mi dicono: autotreno, motrice più rimorchio, auto articolato, trattore più semirimorchio o anche bilico. C'è però un messaggio, non di un autotrasportatore immagino, ma di un ragazzo che mi dice: oggi in bici per andare a scuola ho bucato, non ti immagini il culo che mi ha fatto mia madre. Ciao, io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi, che sono Gianmarco Ferronato, Tiziano Bonini, Margherita Ina e Mauro Pescio. Vi ricordo che lunedì alle 16 siamo in diretta dal Pirelli Store di Milano, Corso Venezia numero 1, è vicino a Piazza San Babila. Per iscrivervi basta che andate sul nostro sito e vi appare un pop-up subito, altrimenti al nostro link Voi Siete Qui Radio 24, appunto. Grazie ancora, grazie a Marco in particolar modo, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Roberto, vivo nel nord-est. La storia di domani è la mia. È la storia di un sogno che parte dal 1999 e si avvera nel 2013, o forse no. Questa è la mia storia ed io sono qui.